E quando fuori dalla finestra il cielo si fa più grigio, e quando dentro i tuoi pensieri si insinua un senso d'amarezza, e quando avverti una crescente mancanza d'energia, e quando ti senti profondamente solo, ecco, quello è il giorno dell'appuntamento col tuo bilancio sentimentale. Generalmente non è un bel giorno, e non tanto perché il cielo si fa un po' più grigio, quanto perché tu ti fai un po' più schifo. Ma se si fallisce sempre ci deve essere una ragione. Dov'è che si sbaglia? Colpa mia, colpa tua. Ma io a quelle cose lì non ci credo. L'errore deve essere prima, non una cosa recente, probabilmente da bambino. Un errore impercettibile, un errore che ha influenzato tutta la nostra vita affettiva. Forse il famoso Edipo. Forse di mamma ce n'è una sola, anche troppa. Eppure nonni, zii, fratelli, insomma figure, fotografie dell'infanzia che rimangono dentro di noi per tutta la vita. Ma sì, un errore innocente, impercettibile, che poi col tempo si è ripetuto, moltiplicato, ingigantito, fino a diventare gravissimo, irreparabile. Già, ma perché l'errore si ingigantisce? Deve essere un po' come quando a scuola facevamo le equazioni algebriche. Cioè, tu fai uno sbaglietto, una svista, un più o un meno, chi lo sa. E che poi te lo porti dietro e nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri e dici, vabbè, tanto poi si semplifica. E poi i numeri sempre più brutti, più grossi, sgraziati, anche addirittura enormi, incontenibili, schifosi. E alla fine x uguale a 472.827.324 fratto radice quadrata di 72.328.035 più c. E ora prova un po' a semplificare. Non c'è niente da fare. La matematica deve avere una sua estetica. X uguale a 2. Ah, bello. La semplicità. Forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi, ma per fare una storia d'amore vera e duratura è necessario essere capaci di scrostare quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti.